Mix 24 di Giovanni Minoli. La notizia in 3D. Le speranze di poter richiamare gli aerei in tempo utile si stanno riducendo ad un ordine assolutamente infimo di probabilità. Fra meno di 15 minuti i russi si troveranno sui radar i nostri aerei. A questo punto diventeranno furibondi e reagiranno con tutta la loro energia. Se, prima di allora, noi non saremo riusciti a sopprimere le loro capacità di rappresaglia, subiremo la più completa distruzione. Ora, se, contrariamente, noi sferiamo un attacco deciso e coordinato su tutti i loro campi d'aviazione e basi missilistiche, abbiamo buona probabilità di prenderli con le braghe in mano. Professor Sergio Romano, buongiorno. Era una scena del film Stranamore, raccontava la guerra atomica. Ecco, dopo il fallimento dell'incontro dei ministri degli esteri russo e degli Stati Uniti per l'Ucraina, si torna alla guerra fredda? Fallimento? Io non ne sono ancora convinto. No. Ho l'impressione che vi sia una certa voglia di portare avanti il negoziato. Credo che Kerry abbia questa intenzione, credo che la Merkel sia assolutamente convinta che questa è l'unica strada per uscire dalla crisi, ma credo che vi siano all'interno della NATO e all'interno degli Stati Uniti gruppi abbastanza forti e abbastanza autorevoli che vorrebbero utilizzare questa crisi per interrompere, voglio dire, questa specie di rapporto conciliante che si è creato nel tempo fra l'Occidente e la Russia. Quindi c'è una tensione. È un partito dello scontro, un partito della conflittualità. E questo partito da chi è capitanato, diciamo così, negli Stati Uniti? Ma negli Stati Uniti c'è ancora una traccia importante di quei neoconservatori che erano, come dire, la mente della presidenza Bush. Poi c'è nel Partito Repubblicano una tendenza a utilizzare questa vicenda per mettere Obama in grosse difficoltà. Obama a sua volta naturalmente non può astenersi totalmente da dichiarazioni abbastanza bellicose, perché se se ne astenesse finirebbe per essere ancora di più bersaglio di questo gruppo. C'è un partito negli Stati Uniti che considera ancora il suo paese una potenza imperiale. Ecco, professor Romano, il viaggio di Obama comunque sembra aver in qualche modo ricompattato l'Europa intorno alla NATO e i suoi interessi strategici. È così? È un accordo che può durare? Io spero di no. Naturalmente, quando si risponde a queste domande, i propri desideri qualche volta fanno premio sulle analisi realistiche. Perché, le ripeto, c'è un partito della confrontazione e paradossalmente a questo partito della confrontazione aderiscono anche paesi come la Polonia, come la Svezia. Curioso, la Svezia, un paese neutrale. Ma insomma, ho l'impressione che ci siano le condizioni per un accordo, per un'intesa. Cosa vogliamo? Conservare l'Ucraina indipendente? Certo, questo è un obiettivo che dobbiamo perseguire. Ma che cosa significa Ucraina indipendente? Ecco, cosa significa? Ecco, se dovesse significare un'Ucraina nella NATO, allora noi avremmo ulteriormente portato in là la frontiera della NATO con la Russia. E questo non mi sembra giusto, mi sembra profondamente sbagliato. Ma quando la NATO dice, professore, reagiremo a ogni minaccia, cosa significa? Ma spero che non significhi nulla, spero che faccia parte di quelle dichiarazioni che si pronunciano in una situazione in cui si è ancora convinti che per negoziare da posizioni di forza non si debba cedere nulla e si debba anzi continuare a manifestare fermezza. C'è, come dire, un rituale della diplomazia, del pre-negoziato, sì. Che in qualche modo costringe le parti ad assumere delle posizioni rigide. Anche Putin ha ceduto a questa tentazione. Ecco, Putin di fatto si è ripreso la Crimea senza sparare un colpo. E quindi anche in Ucraina c'è la possibilità che capiti? Ma io credo che Putin abbia già rinunciato all'Ucraina occidentale. E credo tra l'altro che se avesse fatto il contrario, se avesse continuato a pensare che quella parte dell'Ucraina poteva fare parte della Russia, avrebbe commesso un errore, perché allora avrebbe gettato l'Ucraina occidentale interamente nelle braccia della NATO e avrebbe perfettamente giustificato una scelta atlantica di Kiev e una scelta atlantica per Kiev di coloro che negli Stati Uniti e in Europa vogliono la confrontazione. Ecco, professore, Obama ha detto, per finire, ha detto all'Europa: comunque il gas, se ne avete bisogno, ve lo do io, non preoccupatevi. È questo il cuore del problema? La guerra energetica? Anzitutto questa invito a renderci indipendenti dalla Russia dimostra che Obama è convinto che per noi quella è una dipendenza. Ma siamo davvero sicuri che quella sia una dipendenza? Comprare gas dalla Russia significa semplicemente avere quel rapporto che ci permette oltretutto di essere molto presenti sul mercato russo, di continuare a collaborare alla modernizzazione della Russia se finalmente quel paese decollerà. Insomma, siamo sullo stesso continente, disponiamo di beni complementari. Perché non integrarli? Ecco. Perché non utilizzarli? Esatto. E per andare a comprare gas dagli Stati Uniti? Ma anzitutto Obama non ci ha detto che il gas d'argilla, lo shale gas, per comprarlo dagli Stati Uniti bisogna costruire degli oleodotti, insomma, i rigasificatori in Europa, perché altrimenti che cosa? Lui deve costruire i liquefattori sulle sue coste americane, e noi dobbiamo costruire... Insomma, ci vuole del tempo in ogni caso, parecchio tempo. Ecco, grazie professore. 800 24 00 24 il numero verde, 349 238 6666 l'SMS. Siamo qui per cambiare l'universo. Noi stiamo riscrivendo la storia del pensiero umano. Steve Jobs, Mike Mercola. Benvenuto all'Apple. Grazie. Cercavo un'occasione come questa per investire. E quanto hai intenzione di investire, Mike? Beh, potrei partire con $250,000 e vedere che succede. Come ha detto? $250,000. Dov'è la trappola? Nessuna trappola, solo affari. Questo è il punto, Mike. Qui non si tratta di affari. È una cosa praticamente spirituale. Si tratta di rovesciare la cultura morta. Ecco, ieri è scaduto Franco Caio, che era il commissario di governo per l'agenda digitale scelto da Enrico Letta. In Italia la banda larga, cioè 2 megabyte al secondo, copre il 98,4% del territorio. Ma il traguardo si è spostato in avanti al 2020, quando l'Italia dovrà coprire il 50% del territorio con una connessione a 100 megabyte per secondo. Oggi l'Italia ha la rete peggiore d'Europa e perde il triplo dei dati rispetto alla media europea. Stefano Epifani è professore di tecnologia per l'informazione alla Sapienza e direttore di Techneconomy. Siamo così indietro perché manca una cultura digitale? Siamo così indietro anche perché manca una cultura digitale. Le motivazioni del ritardo infrastrutturale italiano vengono da lontano, vengono da situazioni di monopolio, vengono da una serie di problemi che nascono da un'inadeguatezza delle reti, ma che si sviluppano dal momento in cui non soltanto mancano le reti e quindi si sviluppa quello che si chiama digital divide tecnologico, certo, ma esiste anche un fenomeno che si chiama digital divide culturale, che forse è anche più grave. In Italia qual è la percentuale di quelli che hanno un computer e lo usano? È di poco più della metà della popolazione e siamo circa 10-15 punti più bassi della media dei paesi europei meglio posizionati. Siamo 30 punti più bassi dei paesi europei più avanzati. E lei ha una ricetta semplice per sviluppare questa cultura che manca, come dice lei, che è l'altra parte del divide? Beh, in realtà purtroppo ricette semplici non ce ne sono. Quello che non possiamo non fare è promuovere la cultura del digitale nelle scuole, tra i giovani, ma anche nelle aziende. E serve un'azione di sistema. Non basta, come stanno facendo molte istituzioni, pensare che il tempo sanerà il problema, perché non basta essere nativi digitali per sapere automaticamente cosa si sta facendo. Ma il nativo digitale ha di più una propensione naturale, quindi in fondo è anche una garanzia di superamento di questo divide. È una garanzia del fatto che sa usare strumenti che sono stati pensati essere semplici da usare. Non offre alcuna garanzia del fatto che saperli usare, dal punto di vista funzionale appunto, implichi anche sapere cosa sta effettivamente facendo. Vabbè, quello è sempre un problema di cultura per qualunque cosa, perché esatto, il ferro è ferro, diciamo, no? E con la tecnologia è uno strumento, se poi non sai cosa farne non serve a niente. Sì, infatti la mancanza di quella che potremmo definire educazione civica digitale digitale sta diventando un elemento che pone i nostri giovani a rischio di esclusione digitale, lei prima, di rimanere al di fuori. Lei prima parlava appunto delle classifiche, in qualche modo nella quale si situava l'Italia, ma qual è il paese leader al mondo? Sicuramente ci sono paesi nel nord Europa come la Danimarca, dove il digital divide è un problema residuale. Gli Stati Uniti rappresentano un'economia che basa una parte importante del suo PIL sul digitale. L'Italia, anche rispetto al PIL, è ben al di sotto delle medie europee. Professor Epifani, lo scopo dell'agenda digitale è ottenere sostanzialmente dei vantaggi socio-economici sostenibili. In concreto, cosa vuol dire? Vuol dire, per esempio, in primo luogo, in epoca di spending review, ottenere dei risparmi nella macchina dell'amministrazione pubblica, risparmi che sono stimati tra i 30 e i 50 miliardi di euro l'anno. Vuol dire fatture di più per le aziende. Quando parliamo di un'incidenza del digitale sul PIL, sul prodotto interno lordo, più basso della media europea, vuol dire che stiamo rinunciando a quote di fatturato. Vuol dire per gli italiani semplificarsi un po' la vita nei rapporti con la pubblica amministrazione e con le aziende, cosa che se non si fa naturalmente rappresenta un ulteriore elemento di difficoltà. Vuol dire in sintesi cogliere tutte quelle opportunità del digitale che se non vengono colte si trasformano in minacce. 800 24 00 24 numero verde, 349 238 6666 l'SMS. Onorevole Paolo Coppola, membro della Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni. Ecco, onorevole Coppola, Francesco Caio in un'intervista aveva detto che con questa partita del digitale ci giochiamo l'intero PIL del paese. Esagera? No, non esagera assolutamente. È così? Certo, perché ormai deve essere chiaro che tutta l'economia passa per il digitale. Non è più possibile pensare a un'economia che fa a meno del digitale. Noi purtroppo come paese siamo troppo arretrati, dobbiamo recuperare il gap velocemente. Tra quanti anni, appunto, volevo chiedere, senza aver realizzato il livello adeguato di digitalizzazione, usciremo dal mondo moderno? Siamo lì. Il problema è che le nuove tecnologie aumentano di potenza in una progressione esponenziale e quindi il ritardo non è un gap che rimane costante, ma aumenta esponenzialmente. Ecco, ma per realizzare l'agenda digitale bisogna anche avere un pacchetto normativo chiaro ed efficiente. Oggi c'è? Ma le norme sono quasi tutte a posto, mancano molti decreti attuativi e purtroppo quello che è mancato per troppi anni è la volontà politica. Ma i decreti attuativi sappiamo tutti che sono lì, che giacciono, ce ne sono 500 più o meno ereditati dai governi precedenti, per cui il ritardo è praticamente incolmabile. Ma come spesso succede in politica, poi la politica è fare delle scelte, definire delle priorità. Io ritengo che il digitale sia una priorità assoluta per le caratteristiche particolari che ha. L'open data, cioè l'accessibilità totale e in tempo reale dei sistemi delle amministrazioni, quanto farebbero risparmiare in termini di PIL se ci fosse? Non solo risparmiare, gli open data sviluppano PIL. Noi andiamo verso un'economia della conoscenza sempre di più e avere a disposizione dati, gli open data sono i dati che sono in formati aperti e quindi certo, facilmente elaborabili dal calcolatore, apre una montagna di possibilità dal punto di vista dello sviluppo economico. Altri paesi, soprattutto nel mondo anglosassone, l'hanno capito chiaramente e noi stentiamo. Francesco Caio, sempre lui, aveva ipotizzato più o meno tra i 4 e 5 miliardi l'investimento di euro necessari per centrare gli obiettivi del 2020, cioè quelli che ci permettono, per appunto, come dice lei, di restare nel mondo moderno. Ma dove pensate di trovarli questi soldi? Ci sono varie possibilità, soprattutto i risparmi. Ci sono studi del Politecnico di Milano che dimostrano che ci sono decine di miliardi di euro che possono essere risparmiati da una corretta digitalizzazione della pubblica amministrazione. Cioè, praticamente è un autofinanziamento quasi. Certo, assolutamente. Basterebbe volerlo. Basta volerlo. E che cosa si sta facendo per favorire e organizzare una sinergia di investimenti tra pubblico e privato? Lei dice forse non c'è neanche bisogno, perché se ci si autofinanzia. Beh, no, c'è bisogno perché comunque il privato in alcuni casi ha dimostrato di avere maggiore dinamismo del pubblico. Io penso, continuo a pensare, abbia pazienza, che purtroppo serva semplicemente la volontà politica. Certo, ma è sempre quella. Io ho assistito a tantissimi moltissimi anni in cui si diceva che serve la digitalizzazione. Addirittura ho trovato un primo documento del CNEL che ne parlava nel 1982. Avevo 8 anni quella volta e purtroppo ancora non si è riusciti ad arrivare. È abbastanza drammatico quello che dice. Il ministro Lupi dice che applicherà defiscalizzazione e crediti d'imposta anche alle infrastrutture immateriali e digitali. Questo aiuterà i privati a investire? Penso di sì, comunque tutto quanto può essere utile. Però guardi che il problema più grosso, io per questo vi ringrazio che voi dedicate del tempo a questi temi, è che in Italia manca la cultura del digitale, certo. Manca la consapevolezza. Non è più tanto un problema di risorse o di tecnologie, è un problema di voglia di cambiare. Ma intanto noi siamo un paese che sta per vendere la sua rete sulla quale costruire il futuro, cioè la rete di Telecom, agli spagnoli. Ma ha senso? Beh, io questo ho detto più volte in commissione, che secondo me è un gravissimo errore, perché la rete di telecomunicazioni è un asset strategico per il paese, quindi deve assolutamente stare in mani private e italiane soprattutto. Ma quanto la dà la possibilità che resti? Ma è abbastanza elevata, visto che ci sono stati alcuni atti sia del precedente governo che di quello attuale, che comunque vanno nella direzione di poter esercitare dei poteri da parte del governo per cercare di mantenere asset strategici, e la rete di telecomunicazione è stato messo tra quelli. Quindi gli spagnoli se la sognano, se comprano la Telecom, di avere anche la rete? Ma io devo ancora sentire qualcuno che mi spieghi chiaramente dove sono i benefici di questo consolidamento delle telco a livello europeo. Capisco che c'è una riduzione di player sul mercato e quindi meno concorrenza, ma penso che siano benefici per loro, ma non per noi. L'Inghilterra ha iniziato 5 anni fa a investire nella banda ultra larga. Noi siamo, appunto, l'abbiamo detto, siamo ancora all'ABC praticamente, no? Noi abbiamo fatto un buon lavoro sulla banda larga, sono solo i 2 mega di connettività. Purtroppo sulla banda ultralarga siamo molto in ritardo, sui 100 mega, che è l'obiettivo della comunità europea di trovare, appunto, avere metà popolazione collegata a 100 mega nel 2020, siamo a zero, proprio non siamo neanche partiti. Ecco, in più i fondi strutturali europei sono gestiti dalle regioni, è il modo giusto per arrivare con certezza a quell'appuntamento? Secondo me no, tant'è che avevo richiesto con un'interpellanza se era il caso di fare un unico piano operativo nazionale di coordinamento, e purtroppo mi è stato risposto di no, tant'è che anche la comunità europea, però, mentre il governo mi rispondeva di no, la comunità europea diceva invece che secondo loro bisognava farlo. Onorevole Coppola, intanto il commissario per l'agenda è tutto così importante che il commissario per l'agenda digitale, cioè Caio, è scaduto. Per quanto può rimanere vacante un posto come questo? No, pochissimo. Io sono sicuro che il presidente Renzi nel giro di 1, massimo 2 settimane definirà la governance dell'agenda digitale in Italia. Non si può aspettare altro tempo. È lei il candidato? Ma guardi, questo deve chiederlo a Renzi. Io sicuramente sono uno che si occupa di questi temi in Parlamento. E quindi lo farebbe volentieri. Io assolutamente, potessi servire il Paese in questo senso, sono a disposizione. Vabbè, grazie. Io vi ringrazio. Va bene, con Coppola candidato all'autorità digitale, all'agenda digitale, vedremo cosa cambia, Mario. Mi sembra che l'ipotesi di vendere la rete è senza senso, no? Ormai. Non si potrà fare niente. No. Tu dici che ormai... Non si torna più indietro, molto difficile, molto difficile. È andata, caro Giovanni. Ma erano scelte che dovevano essere fatte prima. Io spero di no. È la dimostrazione che c'è l'assenza dell'avanguardia. I vecchi manuali di politica leninista spiegavano che nelle trasformazioni, nei cambiamenti, ci deve essere sempre qualcuno che sta avanti e gli altri che devono seguire. E non capire come questi meccanismi costruiscano il futuro è la prova non tanto di una pochezza intellettuale, ma quanto di una dimensione provinciale, certo. Ridotta solo ad un cortile. Certo, è così. Daniele da Segrate? Pronto, sì. Daniele? Ecco, sì, dica. Buongiorno, dica. A tutti. Io volevo dire, rispetto al costo della mancata digitalizzazione, io mi occupo di amministrazioni di sostegno e tutele in capo ai sindaci, sono responsabile di 2 uffici di protezione giuridica. Allora, io per andare a chiedere tribunale una copia conforme di un decreto devo andare a acquistare dai tabacchi la marca da bollo, devo andare davanti alla cancelleria a fare la fila siamo ancora questa con è la realtà sulla carta. È così, il Daniela. Costo pubblico di tutto questo è enorme. È enorme. La semplificazione, speriamo che il governo, il ministro della semplificazione, qualcosa faccia da questa parte. Intanto Stefano da Reggio Emilia ci dice: ma a noi la banda larga non serve, in quanto abbiamo già la banda Bassotti ed è più che sufficiente per noi. Va bene, ciao. Era un po' il discorso che faceva Pietrangelo. Mix 24. Senti solo su questa strada piove nel buio tutto intorno e non c'è niente senza mattino, perché combattere è un destino. E oggi l'ispiratore qual è stato, Pietrangelo? È stato che è successo questo. Ero in metropolitana, c'erano dei ragazzi, due in particolare, due fidanzati, un ragazzo e una ragazza, che a un certo punto, chiacchierando, mi dicono che avevano necessità di una dedica, volevano dedicarsi reciprocamente disperato amore degli Z0 Alfa, e io li ho accontentati. Ah, hai rinsaldato un amore, insomma. Che bello. Sarà. O dei pirati, c'è poco da scherzare. Chi non si arruola finisce in fondo al mare. Ai ai ai ai ai. Sky ieri è stata condannata dal Tribunale di Milano. Ma lo sapete perché? Perché? Perché non paga gli autori delle opere cinematografiche che però manda in onda. Sky, per difendersi, aveva sostenuto che il diritto d'autore è incostituzionale, diciamo così, per chiudere il discorso. Però il Tribunale di Milano gli ha detto: no Sky, devi pagare. Allora io dico: cara Sky, paga gli autori, perché siamo una specie in via d'estinzione, come le balene dell'Antartico. La nostra quota rosa oramai ha ragione, fa politica editoriale. Brava. E no? Che cosa bolle Mario in pentola? Vabbè, allora, uno fa gli incontri in metropolitana, un'altra parla del diritto d'autore. E tu vieni in taxi e qui di isoli. Allora, andiamo in Francia. L'astro du jour fait boom. Tutta avec lui di boom, con notre cœur fait boom boom. Allora, il grande Charles Trenet, ancora una volta, è un periodo che siamo sulla canzone francese, non abbiamo certo ancora messo Brassens, ma lo metteremo per la gioia dei cultori del genere. Io vi dico solo che Monsieur Hollande, il presidente normal, potrebbe essere involontariamente un buon alleato per il governo italiano. Allora, la situazione a Palazzo Matignon, arriva, no? Un nuovo primo ministro, Hollande è nel caos più totale, la sua presidenza è la peggiore in termini di consenso nella storia della Repubblica Francese, ha bisogno di un diversivo oltre che di un obiettivo, e il diversivo und obiettivo è la Germania, ossia le politiche di austerità di Bruxelles. Quindi che troviamo un alleato secondo te? Probabilmente nel nuovo sì, governo ci francese. Sono parole abbastanza dure di Arnaud Montebourg, che è ministro dell'economia, dice: basta dogmi austerità, l'Europa è totalmente insufficiente e debole sulla crescita, sono interessi convergenti con quelli dell'Italia? Sì. Insomma, quindi Renzi loro hanno anche un deficit più alto, Renzi, noi no. Quindi Renzi vediamo. Ha anche fortuna. Diciamo, forse ha un fattore C. Io dico che la storia gli sta cascando addosso. Un questa po è la mia sì, lettura, sì. E tanto Salamina. Ecco, il Salamino di oggi è sempre riferito alla politica, perché... perché succede che le notizie non sono buone, perché una volta c'era la sinistra, poi c'era la destra, poi quel che è rimasto della destra si affida alle funamboliche alchimie delle ipotesi familiari, e anche Stefania Presti Giacomo, che fu protagonista certo della radiosa stagione siciliana del forzismo siciliana di Siracusa, che secondo Barbara, quella, come si chiama, la Barbara D'Urso, è una piccola città del sud e invece una grandiosa capitale che diede anche lustro con Archimede, e c'è il teatro greco. Insomma, se ne viene oggi con un'intervista, tutta la storia dell'umanità. Tutta la storia dell'umanità. Passa, che colpa ne abbiamo noi se siamo se il centro mondo, del mondo? Se il mondo si vai al dà dunque. Appuntamento alla Sicilia. Insomma, Stefania Prestigiacomo ha detto che se c'è da trovare una Marine Le Pen, la troviamo. E su Repubblica dà un'indicazione generica ma precisa. Generica nel senso che sono affollate, sono tante. Mm-hmm. Precisa in quanto una delle figlie di Berlusconi può essere un'ottima Le Pen. E allora io dedico questo verso. Se non c'è la trama nera, la Marine Le Pen non nasce. Ah, quindi non c'è speranza. Se vuoi tu migliorare la posizione ed aumentare... Ma, intanto a Ortigia, non so se lo sai, anche la Raiklin, grande economista, sta fondando una scuola di management per manager del bacino del Mediterraneo. A Ortigia. A Ortigia, meraviglioso. Nel frattempo che uno si gode il sole, il mare e le granite. Eccoli. Proprio così, la qualità della vita. Non sentivo parlare di granite da secoli. E certo, tu te ne vai a Londra, ti leggi il Financial Times, fate, e ti perdi la granita. Ma mi faccia il piacere, dottor Buttafuoco, andiamo con i giochi di guerra. Va. Ordinare il disarmo dei missili. No. Tic tac toc, il Chris. 5 numeri, la metà del codice. Giocatori, 1. Metti le X nella casella di centro. Lo so. 6 numeri. È impossibile vincere a quel gioco. Io lo so, lui no. Allora, riprendiamo una cosa che aveva accennato Sergio Romano nel colloquio con te, Giovanni, riparliamo ovviamente di Russia, Stati Uniti, Ucraina, per dire che il Parlamento ha votato, il Parlamento ucraino ha votato per la presenza di truppe NATO nel suo territorio. Che cosa vuol dire? Vuol dire che faranno delle esercitazioni, le faranno tra qualche settimana, probabilmente in estate mi pare siano, e i nomi sono tutti un programma. Rapid Trident and Sea Breeze, che andrebbero bene, diciamo, per un piatto di carne e un profumo a brezza marina. Però, vabbè, insomma, segnaliamo che il partito della confrontazione, come dice l'ambasciatore, esiste e è intorno a noi. Non so se combatte anche per noi. Sì. Abbiamo un tema di chiusura. Te la ricordi questa? Ah, questa sigla di coda dei programmi Rai degli anni che furono. senti. C'era l'antenna che scendeva e saliva. Meravigliosa. Allora, no, per dire che Amazon si butta sulla TV, noi abbiamo il professor Doglio, il professor Simonelli qua in trasmissione con Giovanni e Pietrangelo, discutono di TV, il colosso creato da Jeff Bezos, che tra parentesi si è comprato pure il Washington Post qualche mese fa, oggi rivelerà un nuovo oggetto high-tech, vediamo se un telefonino o se una console o se un'altra diavoleria tecnologica che dovrebbe dare accesso alla libreria TV di Amazon. Il business sta tutto là, ma in Italia cosa sta succedendo? Bisogna che arrivi d'olio. Intanto noi ci facciamo un salamino. Tra i fumi di Londra, l'ira trattenuta del Cavaliere, e si attende l'esito della riforma Renzi-Boschi. Allora, probabilmente ci sarà un nuovo incontro tra Berlusconi e il Premier, perché il Cavaliere non vede l'ora di sedere sotto la fotografia dove sono ritratti Fidel Castro e Che Guevara, il suo sogno, intenti a giocare a golf. Allora, il problema è questo: alla conta del Partito Democratico sono venuti meno ben 45 senatori. Ma a Silvio cosa? Sono venuti meno i sondaggi. L'ultimo che gli è stato recapitato assegna a Forza Italia un risultato sotto il 15%. Non ci credo. Ma sì, perché oggi c'è l'articolo di D'Argenio su Repubblica che spiega con dettagli particolarmente... D'Argenio è bravo, diciamo. È bravo. E la musica si adatta, perché a un certo punto si incontreranno e, insomma, si capiranno, e la riforma Boschi avrà esito. I miei box boxer, invece c'è scritto il mio nome, Raymond. Va bene, d'accordo. Appena troviamo un negozio, compriamo un paio di boxer. Certo, io compro i miei boxer da Kmart a Cincinnati. Non c'è bisogno di andare a Cincinnati per comprare i boxer. Si trova in Hocker Burnett a Cincinnati. Ray, non hai sentito che cosa ho detto, cazzo? Falla finita! Era Rayman. Ecco, oggi è la giornata mondiale sull'autismo. Gianluca Nicoletti, 7 note per 8 passi avanti. Cosa vuol dire? Una manifestazione a scopo benefico che si fa questa sera all'Auditorium del Massimo alle 21 a Romeu. È la storia di due sorelle, una lavora in diplomazia, una si occupa di caratteri scientifici, che hanno deciso in un periodo che stavano a Buenos Aires di fare un film a loro spese, che sia un film educativo su come si tratta l'autismo nel mondo. Ecco, che cos'è l'autismo per un genitore? Ma l'autismo è un bel problema, perché è un figlio che molte volte è bellissimo, non ha segni esteriori di diversità, ma in realtà è come se vivesse in un altro mondo. Devi trovare un contatto continuo fra il mondo, che è fatto di persone indaffarate, che vivono per comunicare, e una persona che in realtà non ha nessuna voglia di comunicare, di fare in modo che lui possa stare assieme agli altri, essere felice, e che gli altri non lo guardino come un alieno. E qual è l'approccio giusto? L'approccio giusto è quello laico, scientifico. C'ho questo problema, mio figlio non guardi radio, fare in modo che sia il più felice possibile e più autonomo possibile. È inutile andare da stregoni, maghi, quelli che ti propongono cure fantasmatiche. L'autismo si cura con tanta buona volontà, insegnandogli ogni giorno a lasciarsi le scarpe, a mangiare da solo, a andare in giro per strada, a sorridere, a riconoscere anche negli altri degli interlocutori possibili. È una grande fatica, ma man mano che vai avanti ti rendi conto che hai dei risultati e poi devi cominciare a pensare, quando, visto che noi non siamo immortali, il nostro figlio ci sopravviverà, quando noi non ci saremo più, chi ci penserà? Questa è la vera domanda su cui vogliamo oggi riflettere. E questo è il senso della giornata mondiale dell'autismo? Diciamo che in Italia è una situazione molto particolare, noi ancora siamo un pochino indietro rispetto al resto del mondo, abbiamo una visione molto stregonesca, sciamanica, i genitori si vergognano di portare questi figli fuori, le mamme si sentono colpevoli perché su teorie ormai sorpassate la colpa della mamma che non è stata abbastanza mamma, in realtà non è così, è una questione di tipo genetico, gli ultimi dati dicono che in America ne nasca uno ogni 86, pensate. E questa sera? Questa sera ti dico, queste ragazze hanno fatto questo film in Argentina che sembra strano, ma in 3 mesi questo film è servito a far passare una legge indispensabile che prescrive per legge la diagnosi precoce a tutti i bambini quando nascono. Se entro i 18 mesi di vita viene diagnosticato l'autismo, si può lavorare molto, i ragazzi possono almeno parlare e avere molto più autonomia. In Italia sembra impossibile questo passo, le due sorelle Colombo hanno deciso di fare a loro spese, questo bisogna dirlo, e dimostrare che è possibile. Sì, questa serata cominceranno in alcuni asili nido di Roma a finanziare loro stesse la diagnosi precoce negli asili. Vediamo se servirà qualcosa. Ecco, intensa questa testimonianza di Gianluca Nicoletti. Noi abbiamo ancora una bolla, Mario. Vai con Roar. Sai cos'è questo? Un caterpillar, Giovanni. E perché il caterpillar? Perché è un bel caso anche questo, di azienda americana che è sotto scrutinio del Senato, perché pare abbia piazzato, anzi senza pare sicuro, ha piazzato 2.4 miliardi di profitti in Svizzera, evitando il fisco americano. Tutto legale ovviamente, però fa pensare, anzi fa rodere i congressmen che cercano risorse per finanziare le riforme di Obama. L'advisor che ha preparato lo schema fiscale ha preso una parcella da 55 milioni di dollari. Grande discussione negli Stati Uniti. Se si fa in Italia ne vediamo delle belle. E intanto il canzoniere di Pietrangelo. Non hai rispettato lo stop. Sei passata in volata con la tua giacca di finto lupo, gli auricolari pressati nelle orecchie. Aveva appena piovuto e presto sarebbe tornata a piovere, oltre le ultime fronde dei platani, oltre le antenne, gli storni. 800 24 0024 il numero verde, 349 238 66 l'SMS. Sara? Siete felici? Quando ti sentiamo sempre. Sì, Dio mio, quanto miele, sono tutto inzuppato di miele. L'allegria è contagiosa, non ci puoi fare niente, Mario. Infatti, Happy è il singolo nelle classifiche digitali sempre primo in Italia, in Spagna, in Francia, in Polonia e in Germania. No, alla io dico, ci sarà un motivo. Alla no? Merkel non piace. I tedeschi sono de coccio. Di coccio. Pubblicità. Mix 24. Allora, abbiamo un vincitore del canzoniere? Andrea da Milano, pronto? Buongiorno. Buongiorno Andrea. Buondì. Ci dica. Allora, secondo me si tratta di Non ti muovere, della Mazzantini. Giusto! Bravo! Un Feltrinelli! Un Feltrinelli per lei. Che cosa fa lei? Ci racconti rapidamente? Sono un fotografo, quindi lavoratore autonomo. Sono a Milano da 4 anni e vengo da Lecce. Quanti anni ha? 29. E il lavoro a Milano com'è? Ce n'è? Il lavoro... Sì, va bene, va bene. Bene, una bella notizia. Per carità di Dio, occhio, cioè, va bene perché nella mia piccola economia mi pago l'affitto, campo, sto facendo esperienza, va bene. Bravo. Tutto quello che giù 4 anni fa non sono riuscito a fare. Quindi per me Milano è importante. È un periodo ottimo perché sto vivendo, sto crescendo e quindi va bene. E allora auguri e complimenti. Un po' di ottimismo, professor Simonelli, per essere buongiorno. Ottimisti sulla televisione. Ieri sera dov'era il canone? Sentitelo con una musica. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine. E allora? Il canone era su Rai 5, questa volta con un film. Niente come sempre, bravo D'Alessandro. Niente Carmelo Bene, questa volta niente Shakespeare, ma la biografia, adesso poi vedremo su questo termine, di Robert Zimmerman, quindi Bob Dylan. Un film che si intitola Io non sono qui, presentato al Festival di Venezia qualche anno fa, non il classico biopic, la classica biografia come fanno talvolta gli americani e spesso anche la fiction italiana, ma uno stranissimo film in cui la figura di Bob Dylan è diffusa su 7 interpreti, 7 personaggi, 7 interpreti, uno dei quali è una donna, che vinse già la Coppa Volpi, che recentemente ha vinto anche un Oscar, quindi un film veramente singolare. Però professore, a me sembra che il canone ieri sera era pienamente su Rai 1, sulla fiction di Rai 1. Dunque, questa è una cosa che dovremmo poi anche vedere, perché la serie va avanti. Sicuramente c'è un'idea... Ma intanto ha avuto un grande successo. Mi sembra che l'idea più interessante sia quella della vigna, del vino. Insomma, anche qui c'è una tradizione ormai sperimentata anche nel cinema. Sai. Una nuova commedia, un nuovo modo di fare commedia. Devo dire che Agostino Saccà si è messo in gioco e ha vinto. E quindi, insomma, cominciamo con queste fiction che riempiono poi anche tutto il palinsesto settimanale. Quindi potremmo poi fare anche un bilancio, perché quello che, come dicevamo già una volta, è interessante è che ogni sera c'è una storia. L'industria che è rimasta alla Rai è l'industria della fiction. Non c'è niente da fare. No, non a caso la fa Sacca. anche, tra l'altro. Poi, se questa storia, insomma, di ieri sera aveva come centro la coltivazione del vino, diciamo che anche la settimana è la settimana più idonea perché comincia il Vinitaly, quindi siamo in piena attualità anche rispetto a questa immagine dell'Italia legata all'agroalimentare, legata alla difesa di un certo tipo di agricoltura, di territorio. Insomma, la fiction di Rai 1 quest'anno non possiamo non dire che abbia la capacità centrato il bersaglio, professore, si dice centrato il bersaglio. Centrato il bersaglio, poi magari alla fine dell'anno facciamo un bilancio totale. E faremo anche un bilancio totale. E poi? E poi, vabbè, poi c'è insomma il martedì sera, insomma, è sempre la sera di Ballarò, quindi insomma questo E com'era Ballarò ieri sera? Ballarò, sa, io non sono non l'hai visto tu, Mario, hai visto Ballarò? Me ne guardo bene, no, basta politica la sera. Si legge, Pietrangelo, viene. Pietrangelo, aiuto. È una vetrina di regime. Ah, e quindi io faccio lo sciopero, un po' come nel Risorgimento, che non compravano i sigari per non dare soldi all'amministrazione, così io evito di guardare. Io ho rivisto Hitchcock per la seconda volta, non dico vedi, altro. Vedi. Ma Buttafuoco quale programma salva di attualità politica? Ma in genere non guarda la televisione, se ho capito bene. Di attualità politica? Cos'è che ti piace? È il format di Giuliano Ferrara, 8 e mezzo. 8 e mezzo. Allora qui ecco che a me piace da quando non c'è più Giuliano Ferrara. No, è invece grande Giuliano Ferrara. Io sono scessico. Senta, qui noi abbiamo Greg, no, abbiamo un amico da Taranto che dice per me il canone era su Canale 5. Grande Luca e Paolo. Ah, Luca ero, e Paolo. Ero tentato anch'io di mettere questo tema all'ordine del giorno, perché vedi, il problema di Jazz è un problema molto serio. Voi l'altra volta avete citato la famosa intervista, ormai famosa, di Ricci sul fatto. Stupenda, sì, stupenda. Poi però, insomma, questo Jazz è tutto da vedere, è tutto da discutere, perché forse ci aspettavamo qualcosa di più. Vabbè, va bene, ne riparleremo, perché siamo in chiusura, professore. In questi giorni è stata organizzata a Roma da una rete di aziende del settore una bella iniziativa per promuovere la cultura. Guarda caso, Sara Tardelli ha intervistato Daniele Ciccaglioni delle librerie indipendenti. Le librerie indipendenti perdono purtroppo il 6% delle vendite, mentre cresce la vendita online. Ma come si fa ad accoppiare queste due forme di vendita? Non c'è un vero e proprio modo di accoppiarle. Le due vendite possono continuamente avere un binario parallelo. Ma voi come vi organizzate per non farvi rubare una fetta di mercato? Ma quello che noi cerchiamo di fare, almeno per quanto riguarda le nostre librerie indipendenti, è quello di offrire un servizio sempre maggiore al cliente e soprattutto una specializzazione e una formazione dei nostri librai all'interno delle librerie indipendenti. Ma come si seduce un cliente? I clienti sono diventati molto più esigenti e abbiamo una necessità anche di attrarre dei clienti all'interno delle librerie. Mi faccio un esempio concreto che posso capire anch'io. Possono essere delle vetrine molto più accattivanti, possono essere appunto tutta una serie di operazioni anche di aggregazione culturale che vengono fatte direttamente in libreria. Cerchiamo proprio di alimentare quelle che possono essere la curiosità all'interno dei nostri punti vendita nei confronti di quello che è il lettore, di quello che appunto è l'utente finale. E infatti da 3 giorni a Roma c'è il Culture Day. Che cos'è? Nasce dalla volontà di molte imprese, sia private che con il patrocinio anche poi della Confcommercio e di altre strutture aderenti, di agire appunto in sinergia tra di noi con l'obiettivo di rafforzare quelli che sono la nostra ricchezza culturale, per cui sono cinema, teatri, librerie, sale concerti. Ma che cosa fanno? Organizzate degli eventi? Ad esempio andare al cinema con un biglietto ridotto a 3 euro, frequentare tutti gli spettacoli dei vari teatri che hanno aderito con il 60 o addirittura il 70%. Ma degli sconti per la cultura? Assolutamente, tende proprio a cercare di creare le condizioni che anche chi non può permettersi di andare a teatro e spendere una determinata cifra o altrimenti andare al cinema con un biglietto intero, con questo modo non c'è più alibi per non frequentare questi posti di cultura. È stato difficile mettervi tutti insieme? Quello che poteva essere difficile fino a qualche tempo fa, in questo momento tutti quanti sentono l'esigenza e vedono come unica via d'uscita quella di veramente cercare di far rete, almeno specialmente su chi ha ancora una curiosità e una voglia di fare. Chi sono i librai per una sera? Abbiamo organizzato degli incontri con dei librai, appunto, a sorpresa per una sera, per cui ci sarà... Ci svegli una sorpresa. Sarà Corrado Augias, Caro Figlio, c'è un De Gregori che appunto in veste inedita di libraio, ci sarà Marco Lodoli, Strinati, ci saranno anche la Gamberale a Monti, a Prati ci sarà Rita Armeni, Franco Matteucci, Montefoschi... Su Mix 24, la storia a cura di Marina Milone, avremo il racconto della vita di Karol Wojtyla, Giovanni Paolo II, con testimonianze di Vittorio Messori, del Cardinal Herranz. Ricordo in chiusura l'intervista a Joachim Navarro Valls, il suo portavoce, poi ricordo che il 10 aprile con il Sole 24 Ore uscirà il libro testimonianza Lasciatemi Andare sugli ultimi giorni di Papa Wojtyla, in edicola, per un mese, insieme al giornale, dal 10 aprile. Lo ricordo, il Sole 24 Ore.